Ok, beh, ho cambiato. Prima stavo usando un vintage del 1970, dunque è con un microfono ormai il MD4. Adesso sto usando la radio, adesso è diverso il discorso. Dai. Lo tengo così, a questo volume, il microfono, perché se no strappo, va bene così. Confermi qua. Va bene Giulio, lascialo stare così, dai. Lascialo stare così che va bene, avanti Gavi. Sì, va benissimo, va bene così, va... Ah, ho sentito un break, avanti. Ciao Antonio Bombolo, buonasera. C'è Claudio da Sassari e Claudio da Muros. Gavino, poi c'è Massimiliano, Francesco da Osilo, Luca in ascolto e poi chi c'è? Mi sembra, ah, è Riccardino, vai per chi vuoi. Ciao Anto, ben ascoltato, buonasera. Ehi, l'importante ci sentiamo, poi non c'è problema. Ho baracchino vecchio, ho baracchino nuovo, l'importante è che facciamo due chiacchiere e ci ascoltiamo, dai. Avanti Osilo. Ok, perfetto. Va bene. Gaspa, Claudio Ruginito, che antenna stai usando? Mi pare che una volta tuo padre stava usando la Manto, ma ancora quella lì stai usando. Buonasera. Io sono tornato. Ma cosa c'è? Bobina in alluminio? Ah, ho capito. Va bene. Niente, molto l'hai pagata. Un attimo di bianco per me, Ti ha chiesto Claudio quanto l'hai pagata a Spegiano e ti faccio entrare subito. Quanto l'hai pagata Claudio, ti ha chiesto Francesco? Era deve essere quella che devo acquistare io sicuramente. Deve essere quella lì sicuramente. Anch'io ho pensato di prendermi quella lì. Mi pare che costi sulle 90 euro. Dove spese costare tutto sarà 110, 115, qualcosa del genere. Va bene, voglio sapere con lei, va benissimo, dai, ok, perfetto. Vabbè, riprendi tu Giulio e fai girare, dai, non so adesso chi fa girare, dai, riprendi tu e fai girare, ok. Sì, riprendo e faccio entrare Gianni nel nostro room. Ciao Gianni, avanti. Buonasera a tutti. Stavo terminando adesso, dai, di pulire, finalmente. Ascolta Gianni, visto che sei di buona volontà stasera, perché non vieni e mi pulisci anche la macchina così? Perché con questi giorni sempre ferma lì, si è tutta sporcata di porra, eccetera. Poi è approvvigilata stamattina per un attimo e dunque la macchina sporca. Perché non vieni a pulirmela? Perché sono a pezzi già, ho fatto tutta la casa e non ho voglia manco di muovermi, non so di pulire la macchina a te. Poi me l'ho lavata io ieri e me l'ha di nuovo tutta sporcata, quasi la biglia e luci. Perché c'è un albero dove c'è il posto macchina io che tu gliela colla e mi cade sulla macchina, capito? Ma già è di quella colla che esce, non è di quella che si attacca. Vabbè, per la colla non è un problema. Un pochino di alcol. Non accettone, no, alcol e basta, ed esce subito. Oppure un batuffolo di cotone imbevuto d'olio e la colla si stacca subito, immediatamente. Non sbagliare, non usare acetone Gianni, perché se no ti rovini la macchina, già lo sai. Va bene, facciamo girare, avanti. Avanti Riccardino. Che bravo, ma l'antenna a me se te l'hai da nuova. No, ho capito, va bene. Ah, manda a me, Riccardi. Sono contento che ti stai prodigando a fare le cose, dai, vuol dire che ti piace. Manda a me, non so chi ci sia, mi sa che ho sentito Massimiliano poco fa mentre facevo pulizia perché stavo facendo ascolto. Massimiliano, ci sei ancora? No, non c'è, è andata a farti la luce. Vai Claudio, Sassari. Va bene, allora riprendo io. Ciao Gianni, ti ho fatto entrare io, era già da Massimiliano. Va bene, va, no, Massimiliano tra la faccia, dai. Ok, sto usando quel Polmar base, con l'MV5, come vedi? No, come sento, più che come vedo. Allora, come senti? Mickey Gain a metà e il microfono a metà, se lo alzo ti posso ancora più sotto, ma non avevo dubbi. Sì, lo so, sentivo anche a KP2 che ci va bene, solo che lui non lo sapeva regolare e fischiava. Sento, questo è un base degli anni 70, il 440 non è degli anni 70 ma è un HF, però ti posso garantire che questo funziona molto bene. La modulazione è molto bella e ha una bellissima ricezione con la colonnina, l'altoparlante davanti. È nuova, a dire nuova e a dire poco, nuova, lucida, veramente, come piacciono a me. Veramente tenuta molto molto bene. Ok, allora il cambio per Eugenio ha detto 20 secondi, così ha detto Giulio, ma mi pare che sono passati 20 minuti, Eugenio. Ormai è quattro versioni, è inutile, anche se rientra tutto in fretta, ormai è già fattibile di quattro versioni, per cui appena rientra lui subito mi darà nome e cognome e manderò subito la multa a casa, e questo non ci sono dubbi, guarda. Facciamo girare Pelugelo, avanti Francesco. Ok, ma poc'anzi ho sentito qualcuno che mi ha chiamato qua, non so se ci sia ancora, sarebbe uno dallo Scalzuro, vediamo un po', avanti l'amico dello Scalzuro. Ti è rilanciato Francesco? No, dello Scalzuro, ma pare che non riprenda, non lo so, provo ancora a vedere se non riprende, pazienza. Allo Scalzuro, ci sei? No, non risponde, va, alla prossima. Va bene, qua arrivava un segnale di 4.5 mi pare, niente dai, va bene. Comunque Giulio, qua ci piano con queste multe che i soldi sono poco a poco. Caffa, ok. Va bene, va bene. Lei, così è Claudio, le radio vogliono tenute bene, anch'io questa sto usando io, si può dire un mezzo ferro vecchio. Perché se l'avrei avuto io, avrei avuto io questa nuova, sarebbe stata, cosa ti posso dire, da mettere in vetrina di nuovo, perché io le radio le tengo bene, le tengo pulite, le tengo diciamo come serve, addirittura quando finisco qua li spengo tutto, copro tutto, è tutto coperto e non si vede niente, ok, anche per la polvere diciamo, e così via dicendo. Così volete tenuta la radio, ma ho sentito che è un 23 canali, hai detto? Sì, ho un 23 canali più il 22 alfa, ha le stesse modalità insomma dei vintage di quella serie di anni 70, però è veramente nuova, non me lo sarei mai aspettato, le cromature sono lucide, non hanno un graffio, il cassone è nuovo, nuovo, nuovo, pomelli cromati, è tutta molto molto bella, nuova, veramente nuova. Ok, adesso domani con calma faccio una modifica, ma che ho già fatto anche all'altra che avevo, prendo l'alimentazione perché è tutta a 220 questa, e c'è anche l'attacco per 12 volts che ce l'ho, però la uso a 220 che mi disimpegna di più, dai, non sto a collegare alimentatori e balle varie. Domani prendo la 220 dallo smitter e alimento anche, illumino anche l'orologio con la stessa intensità e con lo stesso colore, perché l'avevo già fatta. Va bene, allora il cambio per Gianni Doppio Rume che è l'ultimo entrato, poi vediamo se vuole entrare qualche altro. Vai Gianni. Ehi, allora, io ne ho visto una, Claudio, su quei forum che mettono radio, mercato. scattino di radio, eccetera eccetera. Una bellissima radio vintage, ma veramente bella, di quelle americane. Sembra, cosa ti posso dire, un president da una parte, poi c'è la colonnina grande, lo smitter grande, ma veramente è bella. Infatti gli ho scritto subito, la vendi, ma non manco la risposta. Anche questa c'ha la colonnina a fianco, quadrata, c'ha lo smitter bello grande a tre scale, col modulometro, il power per il watt, segnale molto bello, è bella questa, la verità, è molto più bella dell'altra che avevo. Ok, Claudio, riprendi? Dai, ciao Gianni, ciao Claudio, ben sentito. Cosa stai facendo col Midland, con quello che ti ha dato Claudio? È troppo forte la radio secondo me, vabbè, comunque già va bene, dai. Non pensavo che si stia usando quella di Claudio con le baby più 5, dai. Pensavo che stessi usando quello, ma vabbè, già va bene, solo che secondo me vorrebbe un po' più bassa la radio, troppo forte. Adesso sei molto più chiaro. Prima di tutto bu, così, da quanto era forte. Già che me devo allontanare io, dai, se ci siete ci sentiamo dopo. Te l'ho detto poco fa, io il Mickey Gain del Polma ce l'ho a metà, se tu lo metti al massimo è troppo forte, quindi l'ho messo a metà e ho tirato un pochino più su il microfono, capito? Regola così, intanto hanno più o meno la stessa modalità di regolazione. Vabbè, per il momento io vi saluto tutti, devo andare a portare il cane, ok? Se ci siete da dopo, ciao a tutti. Ciao ciao Claudio, buona passeggiata, dai. Io mi sto rilassando 5 minuti e poi lo porto anch'io. Ok, ciao Claudio, alle prossime. Ma Gabino era andato via, Gabino ci sei ancora? Sì, sono rientrato. Io saluto a Gianni e poi non so che è rientrato. Poi vai in zoom, hai sentito? Ah, dottor Ru. Ciao Lucrezia. Ah, Gianni, tu sei mica minezzi. Ciao Gabino. Ciao Giulio di nuovo, là, finito di lavorare, Basta, oggi più gana. Ho fatto anche troppo, ci nulla. Prudu, io stavo facendo tutta la casa in minuto proprio. Oggi proprio la pulizia straordinaria. Ma tu è bravo già, io sono 25, da domani provvederò anche la pulizia della camera. Oh, yeah. E un saluto a Luca, e avanti chi c'è? Massimiliano è rientrato. Gavi, se n'è andato Massimiliano, con questo microfono mi sembri più mascolo. No. Va bene questo microfono, è molto sensibile. Che microfono è quello? Questo non è non mi ricordo adesso, comunque è vintage, da tavolo. Ma l'hai buscato su internet? No, questo me l'aveva regalato un mio cliente che non lo usava più, che non funzionava, ma l'ho sistemato e adesso sta funzionando perfettamente. Gli ho messo l'antisoffio all'interno perché entrava di tutto, diciamo, anche il mio respiro si sentiva. Ehi, perché è sensibile, va molto bene. Ha la modulazione del tunnel, sembrava un tunnel, pensavo fosse quello. Giulio, riprenditela. Ok, già, sì, c'è anche Riccardino, non ci dobbiamo dimenticare, poi c'è Francesco anche da Usilo, per cui facciamo girare subito per Francesco, avanti Francesco. Francesco è caputo, avanti Riccardino. Ah, sta piovendo, sta. bisogna che vada a chiudere le finestre che ce le ha aperte. Ehi Riccardo, ciao, ci sentiamo, dai. Ok, ciao Riccardo, allora, alle prossime. Sì, dai, mi allontano anch'io un attimo, ho già, rientro fra un po', dai, che devo andare in un posto. E allora è la nuvola di Fantuzzi che c'ha. Ui, Antoine, non ti avevo sentito che ci... È all'ombra. E allora, mi sto finendo a essere pulito dalla casa, sono stanco morto. Crepato sono, cioè hanno ragione le donne quando si lamentano. Ciao Antonio, ho ascoltato. Antonio, ti ha salutato Gavino, l'hai sentito? Vai in su. Antonio, ho ascoltato, Da quelle parti piovendo sta? Ah, non li dare retta, se non lo... se tu non lo calcoli, se io cago il muro, capito? Invece se lo calcoli è peggio. Fai finta che non la senti la porta di qui, se non manco se ne andrà. Ma ho visto, stamattina ero sotto l'antenna tua. Ancora c'era? Sì, ero seduto sul muletto perché mi sono fatto una bella camminata col cane. Sono salito sino a punta, proprio sino a su tutto lo stradone. Poi sono risceso giù e quando stavo scendendo ho trovato un muletto e mi sono confusato. Ed c'era proprio l'antenna tua di fronte. Eia, eia. Ma hai visto quel imprenditore che c'è vicino? Hanno messo i pannelli 5G. Te ne sei accorto? Sì che me ne sono accorto. Dice che in certi posti dove l'hanno messa in funzione ha fatto morire anche un po' di uccelli. Tanto occhio che se ne attacca ti può morire l'uccello. Radiazioni emanano, le onde magnetiche che sono inquinanti, fanno male sia 4G sia 5G, tutte le onde magnetiche fanno male, sono cancerogene. E hanno messo i ripetitori, hai visto che avevo il ripetitore che c'è sullo stradone nuovo, quello alto alto, quello lì di che cos'è? E dove, non ho capito, in che zona? Allora, la strada che porta da Via Mores che porta verso il monte, ce l'hai presente, quella strada nuova che hanno fatto. Quella lì, c'è un ripetitore enorme, enorme, che se, ho alzato la testa, anche se stavo qua, tutti i capi, tutti gli attacchi che c'erano, no? Un casino. Ma dove? Vicino a casa? Di fronte a casa tua. È quello che sto dicendo io, è quello che sto dicendo. Lì hanno aggiunto i pannelli del 5G, capito? Comunque le onde elettromagnetiche sono più potenti delle 4G, indubbiamente. Capito? Per quello che dicono che fanno male. Senti, tua moglie è parlando. No, io stavo dicendo quelli che ci avevi sul tetto tu, quelli lì, non ti disturbano? No, non disturbano. Tieni presente che quando c'hai l'antenna telefonica sopra, non irradia verso il basso, irradia verso l'alto già, capito? Dunque non disturbano. Alessio dice che questo 5G lo disturba. È possibile, magari se ce l'hai proprio a fianco potrebbe anche disturbare. Kappa. Chi c'è rimasta ancora oltre noi? Ho capito che io uno se n'è andato l'altro lo stesso, Giulio ha detto che rientrava dopo, Riccardino ha detto che stava piovendo e se ne andava, insomma siamo rimasti noi tre soli. Ma non lo so, perché io poi ho avuto un attimo di bianco, c'era Claudio da Muros, poi c'era da Osilo, c'era, insomma ricordo come si chiama, e poi c'era Massimiliano, poi vabbè gli altri non lo so. K, vediamo un po', Francesco ci sei? Tu, Francesco di Osilo non c'è. Siamo rimasti noi, avanti a tu, riprendi tu. Un quarto d'onda, e poi sto uscendo anche con 2 watt, 2 watt e mezzo, non sto uscendo alto come potenza, capito, e che magari la zona alta, capito, dunque ti dà segnale buono, anche Gianni è così, Brecco, avanti, dai, mi hai ripreso, era ora, adesso sto meglio, adesso ce li ho tutti asciutti. Mandigato, anzi. Mandigato? Ma con gli uffa, facciamo. E allora? Ti suonate? Eccoci, pidda. Va bene, dai, va bene. Gavì, quando c'hai quel tarne più 3, cazzo si sente, Tonina, limpia, va vedendo dove vado anch'io. È un po' sensibile, nonostante ci sia il distoppio qui che ho messo. E si sente al telefono, l'altro non deve da burla, Massimiliano. Questo microfono è eccezionale. Poco fa, aspetta che, in effetti a Gianni gli avevo detto un altro tipo di microfono, ma è il Thunder questo, già. Io cosa ti ho detto? Mi serve una chiave alla modulazione del Thunder, cosa ti ha giudito? Hai ragione, mi sono sbagliato. Ma è il Thunder più 3, dai, quello grigio o quello nero, Il nero, è vintage, blu, più vecchio, forse uno dei primi, Thunder che hanno fatto. Massimiliano già lo conosce. Massimiliano, ma tu vai per il registrato, l'hai parlando a Gavino? Sì, l'ho registrato e gliel'ho anche mandato, sì. No, gliel'ho fatto anche abbassare perché quando prendeva il respiro per parlare si sentiva anche quello. Già me lo ricordo. Quello prende tutto, Se dici qualcosa che non devi dire ti sputtana subito. Sì, è positivo. Allora, che c'è questo canale? Perché poi ho abbassato, ho fatto la doccia, non so chi è rimasto. Allora, Gianni Opio Room, Gavino, Luca, poi chi c'è ancora? Antonio Bombolo. Ah, ok, dai, avanti Anto, parla quando mi ascolti. Quindi Massimiliano se lo ricorda che aveva data lui, forse una REM, forse sì. E la REM è Anto, quella tre radiali da 2,75 m, tipo la Grand Prix. Va bene sì, stazionare non ce n'è in tutti i canali, quindi è perfetta. E per fare 2 chiacchiere va benissimo. Avanti, Lugariello. Ma che c'ho tutta la sera con l'importante? Razza di gusti, razza di gusti. E chi? La portante, lui, qua la portante non ce n'è. Ma ha capito, ma cioè che gusto sta tutta la sera lì, vai picca di gas, mi è un cullone, la regalo io, c'ho la corda, se vuoi gliela regalo io. E cosa sta lì tutta la stamattina, mica, sempre questa portante, domani era la 7, 8, mi sa, 8, 9, se non mi ricordo, qua è 5, 6. No, non mi fa niente, ma assolutamente, né a voi nulla, zero, non mi fa proprio niente, ma dico, il gusto ci prende. Ci pulisce il QRM almeno. Pardon, ma chi è quel famoso, io qua vabbè non lo sento, là questa portata, ma chi è quello famoso là? E ancora non si è andato a toccare la Ianna. Va bene, dai. Allora già abbiamo accoppiato questo 60 qui nel 44, come va? Bene, bene, bene. Va bene, Massimiliano. Ok, dai. Allora a posto. Vai, Gabi, riprendi. Ehi, a poco fa quando ti sei inserito sentivo un innesco, tu, non ho capito che cos'era. Adesso l'ultimo passaggio era, non c'era. Tu mi arrivi 9:20 e 5 di radio. Buono comunque, ottimo, dai. Sì, radio perfetta, è buona. E ci manda, siete attaccati, sono rientrato, fino a mocciata leva, ciu. E anche qua sta piovendo, Claudia. Anche qua sta piovendo, non è molto, però sta piovendo. Mi sa che l'ha messa per tutta la notte, io. Non avevi detto, infatti, quella... quando ci siamo visti che... domenica dava acqua, cazzo, ma mi ci ho provato, ma domani c'era il portiere vicino al porticato e me ne sono andato sotto, cazzo, pari uva, pari, scegna una vodra non vedeva. E poi c'è anche un po' di vento, capito, per quello, esci a vedere, mi avvicino alla finestra. E infatti ho spento tutto, ho lasciato questo qua che è 220, gli alimentatori sono tutti spenti, la linea degli HF è tutta spenta, ho lasciato solo questa, vedi? Per quello io la volevo una radio così, almeno c'è l'antenna attaccata qua, l'altra alimentazione è tutta staccata e ci rabbiglia il luce. Ho detto Massimiliano, ho collegato il 747 a questa radio, ma la devi sentire, uno spettacolo, aumenta ancora di più la radio. Provalo, dai. No, solo mi sono avvicinato alla finestra, c'è un'aria nera impressionante. Insomma, ha messo un po' di roba di tuoni stanotte, cose del genere. Ma domani che tempo ha messo? Ma domani è buono, dai, domani è variabile, nuvoloso, ma acqua non è adatto. Ma l'adatta per stanotte è forte l'acqua, Sì, allora non stendo nulla. Ora ho fatto le lenzuola, se no si fa di quella pioggia marrone, mi imbrutta tutto. Le beccio e a scirocco non stendere, anche io c'ho la lavatrice, anche mia moglie c'ha la lavatrice piena, stenderà domani, è acqua sporca. Guarda Massimiliano, tu guarda il segnale, aspetta che intanto metto in scala 200 se non mi faccia tutto, guarda questa cosa, questo è normale con, allora modula questa radio con 5 watt pieni e va a modulare intorno ai 7-8 watt, ok, adesso ti aggancio il 747, guarda, ma che cazzo è l'interruttore, eccolo qua. Adesso c'è 747 agganciato, guarda se ha cambiato qualcosa. Sì, è cambiato, dove vai? Da 9, allora 9.95 normale la radio, poi vai da 9 a 9.15 passati, però picco di modulazione non ce n'è, rimane stabile, là. Sì, già, non è che aumenta i livelli, però già aumenta un po', E appena appena ho notato in cuffia che mi aumenta la modulazione, anziché abbassare l'aumenta, va bene, vuol dire che è tarato alla perfezione, l'ingresso è giusto, e va bene. Sì, da cosa? Da sorso faccio da 7 e qualcosa, quasi a 9.5. Va bene, sono una settantina, non di più, capito? Però si può già ribellicato, c'ha una ricezione questa radio che è fenomenale. È fenomenale, ma io l'avevo già usata e mi piaceva per quello. Adesso domani le illumino con la stessa intensità, però devo prendere la lampadina 220. Le illumino l'orologio, così è tutto illuminato. Avanti, Gavi, riprendi tu, dai che stacco. Ehi, Maria, sì, è aumentato leggermente, ma forse è buono, è migliore come radio questa. Alle senti le scariche. Sì, sono qua, là. Scusate, sto cercando roba su eBay, scusate. Scarica le prostatiche che non voglio. Scarichi un be. Vabbè, no, io sono attaccato sotto, la 220 l'ho presa da sotto, dalla centralina che c'ho sotto, al quadro che c'ho sotto, la scrivania. Però, nonostante ci sia tutto il coso schermato, la scarica l'ho sentita lo stesso. Vabbè, chi c'è rimasto? Illuminatemi qua, chi c'è rimasto? Il dottor Roma, Massimiliano, Arturo, forse un attimo di bianco. Bene, Massimiliano, lei sta usando quello al microfono? Sì, sto usando quello, sto usando lo stesso alimentatore switching, quello con la ventola brutta, perché quello là era troppo ingombrante, troppo in mezzo ai piedi e niente. Ho tolto la cuffietta antisoffio. Sì, non emette. Va bene, no, è come l'altro, non cambia niente. Ottimo per la truppa, va benissimo, alla grande, dai. Ok, avanti, doppio. Allora, devo chiedere una cosa. Quell'orologio funziona con la 220 oppure ci vuole la 12 volt per farlo funzionare? Solo la 220 funziona, 12 volt non funziona, infatti io ce l'ho diretta la 220 e anche quando spengo la radio l'orologio rimane in funzione. Perché ho letto su un forum dove stavo avendo una radio simile a quella, non dico che sia quella lì, il patch mi pare, e c'era scritto che per c'aveva i cavi che uscivano per la 12 volts che erano stati tagliati, che però bastava ripristinarli perché quelli servivano per far funzionare l'orologio, diversamente non funzionava. L'orologio funziona a 220, io ho cavi tagliati, non ne ho, questa radio è nuova. Allora Massimiliano, dietro c'è l'attacco dei 12 volts che è uguale all'Elbex, alla RAN 48, preciso detto, cambio la spinetta, tolgo la 220 e metto la 12, la spinetta della RAN 48, è nuova già questa, è veramente molto bella, però voglio illuminare anche l'orologio in giallino così, c'è il modulatore, il tasto verde che si accende quando schiaccio la portante e poi modula il rosso col modulatore, c'è un modulometro, un rosmetro e wattimetro, va bene, è molto bella, a me piace, dai. Per essere un vintage degli anni 70 funziona veramente bene, la regolazione è quella che hai fatto tu Massimiliano, va bene così? Sì, qua, va bene, ce l'ho avuta anche io con la radio, ma me ne sono disfatto subito, non mi biasiano a me questi vintage così, specialmente quello. No, un po' così, io avevo l'Inuit, già te lo ricordi, avevo fatto uno scambio con Sandro e Sandro mi aveva dato quella radio, me la metto bubo, sempre base, no, è una cosa medurata, forse mi è durata 10 giorni, si è sbucata subito. Vabbè, no, io questa l'ho voluta proprio, l'ho cercata, non è che a me piacciono. Piacciono questo tipo di radio, capito? Sì, quello che abbiamo dato a Giuseppe di Alghero. No, va bene, no, questa va bene a me. Mission Disc è una radio che mi permette di modulare, poi mi piace, non è brutta, perché è brutta? Questa è più bella di quella che avevo io, dell'Inuit, del 294. Questa è molto più bella perché è nera e poi le cromature sono molto molto belle. Tutta è bella, a me piace poi. A chi non piace chiaramente non fa. Va bene, adesso vedo se ne trovo anche un'altra simile a questa che l'ho vista. Gianni non me la vuole dare l'altra gemella, vabbè, perché ripiazzo l'altra base e mi metto il DAC e questa, se ne trovo qualche un'altra faccio una parte CB vintage e il resto tutta la parte amatoriale come la prima, dai. Avanti Gavì. Niente Gianni, cosa stai facendo? Io sono sdraiato, mi sto rilassando perché mi sono pulito tutta la casa e sono stanco. Ho fatto bucato, insomma, ho fatto l'uomo di casa. Ogni tanto ci tocca, vero? E tu Massimiliano, cosa hai fatto oggi? Mi ho grattato le unghie dei piedi. Mi ho giocato proprio nuda io. Già cosa c'era da fare io? Dirò no. Niente, è completamente zero. Senti, se la trovi uguale, ti volevo chiedere, ti volevo dire, Sandro ce l'ha quella che gli ho dato io, è nuova, nuova, poi a me non piace. Chiama Sandro e c'ha quell'inuit uguale a quello. Io ce l'avevo l'inuit uguale a quello che ci avevi tu, però l'ho venduto a Marco Scorpion, ti ho detto, ed era celeste, non era blu. Questo invece, cioè, non era, era celeste, non era nero. Questo invece è tutto nero, ma nuovo, ti ho detto, nuovo, lucido, bello. Anche le cromature, quelle là erano un po' scolorite, queste sono proprio cromate, bene. È nuova, evidentemente è stata usata bene. E c'è l'altoparlante davanti quadrato, mentre quello che avevi tu ce l'aveva rotondo, come quello mio, capito? E si sente un bel bene, molto bene. Poi c'è il deltatune, che lo tengo sul più, che aumenta, aumenta leggermente la tonalità della voce, e poi c'è il tono della, del, della ricezione. La puoi mettere un po' alta o un po' bassa, capito? Con i medio alti e i medio bassi, io ce l'ho in mezzo, dai. Vi ascolto veramente bene. No, sono contento, a me è una radio così, piaceva, l'ho cercata, l'ho voluta e pensavo che non uscisse così bene, invece va anche bene in modulazione, dai, a livello del Dark, a livello dell'Elbex. Va bene. A me rimane un ripiano libero, però adesso devo decidere come riempirlo. Guarda, io ti dico una cosa, se va in porto, perché domani sono incasinato, perso, ho un sacco di cose da fare, che scade una gara d'appalto, quindi domani sono incasinato. Però da martedì, mercoledì in poi devo andare a trovare un amico vicino a Olbia con un altro amico di Sassari che passa a prendermi, e molto probabilmente me ne prendo tutte e tre vintage, di cui una c'è il pupillo che è sempre piaciuto a te, il Royce, però non so che tipo di Royce sia, mi ha detto che è tre strumenti, però non so che modello sia. Ok, dai. Vabbè, se ti capita. Capita cosa? Di prenderlo. E ti sto dicendo, devo andare, a me se mi piacciono, se sono buone, se sono belle, se sono nuove, come ho fatto questa, io sono andata a Muro, se l'ho vista, e ho detto ok, mi piace, dammela, se no mica avrei fatto lo scambio, perché l'aveva ancora tutto gliato io, nuovo, già l'ha visto, c'è la staffa, c'è tutto, capito? E quindi mi è piaciuta questa perché è nuova. Se quelle là sono in buone condizioni, che sono nuove e funzionanti, perché prima era dei soldi, ne vuole 100 euro l'una, quindi sono tre vintage così, base 300 euro. Più ci sono due microfoni, mi pare ci sia un SBA e uno Shure, devo vedere. Se è roba interessante, che è nuova, ti ripeto, che mi piace e che funziona, perché me la deve far vedere funzionante, me la prendo, se no si la tengo. Ma se tu lui si vedi che funziona, a te non ti interessa, pensa a me. Se secondo te se funziona lascio lì, ma io devo vedere anche l'estetica, cosa di logo, un montone di garraggio? Ma non per la cassa, no, perché la cassa è in legno e si può tranquillamente rifare, la smonto dopo a Massimiliano e me la va di nuova a Massimiliano il falegname, perché abbiamo anche Massimiliano falegname, oltre che sfascia pietre, capito? Vedi, dava gli fatti in legno Massimiliano di Boia Pignitu, è bravissimo, quindi per quello non ho problemi. La do a lui e me la faccio fare nuova, ma a me interessa com'è la radio, perché se il frontale è graffiato, se c'è qualcosa di rotto, se i pomelli non sono come dico io, se insomma la radio, io parlo della radio, non della cassa della radio, quella si può sempre mettere a posto, io guardo quelle cose. Sì, basta farla rifare la cassa, non c'è problema, ma la radio deve essere di lusso, deve funzionare, dai. Se non funziona è inutile che la buono, perché qua ho tolto il ripiano dove c'era il computer, l'ho tolto il computer, me l'ho messo nella cameretta e ne ho messo il monitor grande, capito? Quindi me lo uso in cameretta, gli ho fatto tutto l'impianto stereo, grazie, faccio l'impianto che ne manco in discoteca, vera. Sì, vabbè, sta attento, non passi a ghiaccio di antenna e ti dice cosa burba la radio, ma per la musica adesso. No, già, ma te lo sto dicendo. Quello che avevi preso tu ad esempio, o quello che mi ha fatto Massimiliano, erano sì, la cassa un pochino graffiata così, ma poi l'avrei fatta nuovo, che è quello che c'ha Antonello Barracuda adesso, quello era il mio, che mi aveva fatto Massimiliano. Quindi, se, ti ripeto, la cassa da rifare non mi interessa, perché si può rifare, ma quando tu c'hai problemi nel frontalino non si può rifare, cioè, capito? Questa è nuova, sia la cassa che tutto il frontalino. Se quelle sono a posto le compro, se non sono a posto, come dico io, non ne biglio, anche se funzionano. Io le radio le voglio a posto. Vai Massimiliano. Vabbè, vabbè. Diciamo che almeno il frontalino deve essere sempre in ordine, poi per i coperchi, i fianchetti e roba del genere si possono sempre rifare, poi giustamente se la trovi in ordine è meglio ancora. Poi vabbè, sì, io ce n'è posto a riempire, ho già, di navi vuole, va la veloce bene subito sul bus. E quello già lo so, no, devo solo decidere e basta che cosa metterci, perché volevo mettere il 3009, ma a quanto pare non ne ha più nessuno. Ce n'è uno in Gran Bretagna, 90, allora ti viene intorno ai 120 euro, è usato ma è nuovo, è nuovo, con scatole e tutto, aspetta che tolgo la spina a gaglietta al piede, vai riprendi, va via. Ma scusa Massimiliano, ma il mobile tu ce l'hai fatto per gli apparati? Io mi ho fatto una scrivania, capito? La scrivania e me l'ho già fatta io. Però adesso siccome le radio hanno aumentato un po', quindi cosa devo fare? O mi faccio un ripiano, oppure me lo ingrandisco un pelino e mi metto tutto bene, va? Capito. Ma escono, entrano queste radio. Giuseppe Giambendi. No, io non so Giuseppe Giambendi. Io sto sempre comprando, che è diverso. Ho tolto due garraggi e me l'ho preso una buona. Hai fatto bene, hai fatto bene. Avanti a chi tocca, vai in giù, sì. Sono in ascolto. Comunque avere delle radio vintage è bello, Cato, ti fai una parte vintage come sta facendo Claudio, cioè la condivido assolutamente. Vai qua. Io ce l'ho sempre avuta, questo è stato realizzato apposta la stanza, c'è una base, poi c'era la L è quella, già l'ho vista sempre Massimiliano, ma ne avevo 12 io di base, 12, le ho tutte date, tutte mi proprio, ma anche regalate ne ho mi, soprattutto a Roberto, a Gianni Capri 2, gli ho dato il courier, il coso, il console, poi ne ho dato, ho tre di ferro, belle pesanti, e due di legno, non mi ricordo. E perché ero sempre a diguglio con mia moglie, non riusciva a pulire i miei vetri, quindi ne ho tolta quella base lì, capito? Ma è stata fatta apposta proprio da Giulio per mettermi tutte le radio vintage. C'avevo tutti i microfoni da tavolo vintage, tutte le radio, c'avevo Sommercamp, la linea, quella di Kraft, ne avevo un sacco, c'avevate tu mia, Roberto c'avevate anche, capito? Vabbè, comunque adesso me la rifaccio piano piano, dai. Adesso inizio da questa, al DAC ce l'ho, due veicolari ce li ho, vintage, adesso vediamo se questo la prossima settimana mi piace, io ti ho mandato il messaggio, me l'ho detto, ti chiamo martedì mattina o martedì pomeriggio e ci mettiamo d'accordo. Se la roba è buona, che è interessante, gliela prendo, se no si raddene, non me ne affutti nulla, ne cerco altre, dai. Avanti Massimiliano. Aspetta, prendo la spina a gallo. Sì, vai già. Sì, via. Cava. E vabbè, dai. E quello ha due o tre strumenti, adesso non mi ricordo, tre mi pare che ne ha, quello che dico io. Quello che mi hai comprato tu su internet all'asta ne aveva quattro strumenti. Poi c'è quella 4 che c'avevo io, poi c'è anche quella 3 che c'era Massimiliano. Ci sono diversi modelli di quelli, infatti il mio, quello a 4, a me me l'ha fottuto subito a Walter che ce l'ha, perché lui c'aveva quello con tre strumenti, capito? E io gli ho dato quella a 4, adesso ce li ha tutte e due o tutte e tre serie mi pare che ne abbia di quelle. L'ho dato a lui, però io sotto mano, sempre da un amico di Stefano, c'ho anche un Simba, te lo ricordi? il Simba SSB50, che è grande, più grande di questo che sto modulando io, è un po' più piccolo del DAC, che è bellissimo, è molto molto bella quella radio, ma bella, grande, bellissima, 220. C'ho sotto mano anche quella, cazzo, ma ne vuole 200 euro però. No, 200 euro è troppo, 100 euro si possono pagare quelle radio. Sono già usurate, hanno tutti i componenti usurati, cosa devo pagare? 200 euro mi sembra troppo. Ma 100 è poco. Già, 100 è poco. 100 è poco, capito? 100 euro è poco, 100 euro siamo a questi livelli, 23 canali, 80 euro, 100 euro. Simba costava un pacco di dirami quando è uscito. Io sto cercando di tirargli a 150, se me lo da 150 glielo prendo. Ed è nuova, mi ha detto che è nuova, ok? Non mi ha mandato nessuna foto, potete mandarmi delle foto, non me le ha ancora mandate. Questo è vicino nella zona, dai, tra Porto Torres e Sassari, ok? Nella zona verso Canaglia, dove abita Vittorio, in quella zona lì, o Massimiliano, quella zona lì che tu conosci molto bene. Quello lì, lo sto cercando di tirargli a quei 150 euro. Sai di chi era quel Simba già? Te lo dico, chiaro e tondo. Attenamente a Franco Panino. A chi? Franco Panino, te lo ricordi tu? Quello che ci aveva il forno del pane a Palmadola. Panino me lo ricordo, nominativo, ma non lo conoscevo. Chi ce l'aveva arrestato? Di quello lì era, c'ha quel Simba, c'ha un bel lineare grosso che mi sembra che sia un Giumbo Aristroca, perché la buona di Bartolomeo Chiesiele lo chiamava, siccome il compare Bartolomeo, me l'ha detto proprio il figlio di Bartolomeo, capito? Me l'ha detto il figlio di Bartolomeo che c'ha questa roba, se mi interessava, ha detto vabbè, dillo a mandarmi le foto, invece non me l'ha mai mandata. E devo andare anche lì, vicino a Palmadola, a vedere questa roba. C'ha un Giumbo Aristocrate, la Vedova Nera lo chiamava, il Chisiele, invece è quello da un kilowatt, ma si vede quello a 5 valvole, quello grande grande. Poi c'ha anche dei pezzi di direttiva, rotore, strumenti, balle varie, insomma. E devo andare anche lì. Quel Simba, 105, se lui me lo dà 150 euro, che è buono, ma quello lì anche se è graffiato, siccome è in ferro, si può verniciare tranquillamente, se è buono che è funzionante, quello me lo prendo lo stesso. Sì, ma lui aveva dato la patente da radioamatore negli anni che l'ho data io, W0, quindi 92-93, ci siamo conosciuti, però non era passato e aveva già comprato direttive, aveva già comprato tutto, era perché già lo sai, uno che ci aveva adesso, ci aveva soldi, ci aveva una bella azienda ed era compare di Bartolomeo Chiesiele. E quindi c'era un bel in roba, c'aveva un bel in roba, poi che fine ha fatto non lo so. Il figlio di Bartolomeo da poco, che siamo visti a Sassari, mi ha detto che c'ha queste radio vintage. Ho detto guarda, dille che di farmi il prezzo, me l'ha detto il figlio di Bartolomeo, e mi ha detto che voleva 200 euro, ho detto io 200 euro non gliele do, se me lo va per 150 ci mettiamo d'accordo, vengo e me lo prendo. Comunque devo andare a vederla, perché se c'è anche altra roba che mi interessa, aveva anche un HF, se non l'ha venduto, se non gli hanno sequestrato, boh. Perché lui continuava a modulare praticamente con le direttive e le radio HF, ed era andata la Guardia di Finanza, addirittura gli avevano mandato, col parete aveva abbigliato, che povaraccio. Avanti Gavì. Io sto sempre in ascolto. Stavo dicendo, ma gli apparati toccai, come funzionavano qua? Gli apparati toccai? K, sì. Ho avuto il 5024 subito dopo la faietta KB23, poi dopo il 5024 ho avuto il 5008. E ti posso dire che il 5024 andava molto molto bene, erano 23 canali, 22 canali più l'11 alfa, funzionava molto meglio del 5008, il 5008 era un po' così, però funzionavano bene tutte e due. Ma ti ricordi che a Sassari rivendeva un negoziante che c'era in via Principessa Maria, non lo ricordo Cata, come si chiamava? Costantino Fara, sì, che poi era morto visto che stava, che vendeva questi apparecchi, giusto? Sì, li vendevo. No, io l'HB23 e il Tokai 5024 l'avevo comprato da Pintus e Scarpa in via Cavour con il turner più due da tavolo. Da Costantino Fara non ho mai comprato niente. E poi la modifica me l'aveva fatta Panzer me l'aveva fatta in via Galeo Galilei, capito? Me l'aveva fatta lui la modifica. Va bene, comunque funzionavano bene, ma Gavi, il vintage, te lo dico io con molta esperienza, io sono in radio dal 1973, la concessione l'ho fatta nel 75 e ho usato tutti i baracchini impossibili e immaginabili, dal Constat 25B, 35B, il Tenco 46T, per Sipsa, il simbolo avuto, ne ho avuto un sacco di base. Poi dall'86 in poi sono passato al Kenwood e da lì non mi sono più mosso. Ti posso dire che sono tutte radio che funzionavano bene e ancora funzionano molto bene. Vai Massimiliano. Scusate un secondo, vai, Clara, riprendi un attimo, sto facendo un cosettino che ci volevo impegnato. Oh, stavo dicendo, Clara, questi apparecchi qui sono tutti diversi innanzitutto, ognuno ha la sua caratteristica, indubbiamente. E poi, niente, avevano un certo fascino, dai, indubbiamente. Numero uno dei vintage, però è americana, qui stiamo parlando di radio vintage italiane, la miglior radio al mondo, perché non c'è nessuno che la può battere, è sempre il DAC, ne ho visto tantissime da Walter, sono molto belle, il Trump, tutte quelle che c'ha della serie, ne ha tantissime, molto belle, basi enormi, però quello che affascina sempre è il DAC, non c'è niente da fare. Lo voglio io quello lì. Sì. Ciao a tutti comunque, ciao Gavino, ciao Maciuliano, Claudio, chi c'è poi? Detto, vabbè, mi fai la capota della macchina e ti do il DAC. Di che colore te la vuoi che te la faccia? Pallini o con arancione? No, come siamo d'accordo, siamo rimasti d'accordo, non te l'ho detto Danilo. Nera a scacchi bianchi, Juventina. E quindi ci facciamo le pedine giù che madama. Fiamo uscire, vabbè, io già metti di via. No, non uscirà, guarda, io ho avuto offerte anche da poco, ma in primis mi sarei messo d'accordo con Gianni Capri 2, che ho sempre dato tutti i vintage a lui, ne ho dato un sacco, le avrò dato anche quella, magari me ne avrei preso un'altra più piccola, no? Ma no, non esce da qua, assolutamente. Non esce perché ho fatto un patto con Daniele e rimane qua. Non esce, assolutamente, capito? Quella radio rimane qua, poi gli ho messo le valvole nuove, me le avevate già nei capi 2, l'ho tutta revisionata anche da poco, aperta, pulita dentro, è perfetta, funziona bene, stavo usando anche l'altro giorno, ma è qua, posso invertire, solo che il cavo dell'antenna adesso, perché il commutatore a 3 l'ho passato al Polma, ma devo staccarlo e attaccarlo al DAC, e funziona anche il DAC, funziona l'airbag, funzionano tutti. Adesso mi rimetto la base qua, l'altra scrivania, l'altra base della scrivania e mi faccio tutta la parte vintage di nuovo, Robè, capito? No, il DAC, come hai detto tu, è la più bella di tutte, a parte che è enorme, c'ha quegli strumenti grandi, bianchi, bellissima, con le maniglioni, è proprio una radio, ci vede una cosa di qualità eccezionale, poi se gli metti un bel microfono con lo Shure e con la radio è una bomba. Gliel'ho messo, infatti esce un bel bene. È ancora più alta di questa, ma ti ricordo che questa io ho il Mickey Gain a metà della radio e il microfono è a 5. Se sollevo, si è abbassata leva. Se sollevo il Mickey Gain è ancora più forte, ma non serve a niente, dai, per fare due chiacchiere è più che sufficiente. Come dice Giulio, intanto io posso attaccare anche un corno di bue e la radio esce lo stesso. Vai, doppio rum. Io vi lascio, vado a vedere il telegiornale e poi faccio il pasto a Tyson, dopodiché se smette di piovere scendo, se no devo aspettare. Adesso lo sta piovigilando già, appena lo puoi portare adesso. Sì, intanto va sotto il porticato se piove, non me ne ha fatti nulla. Già mi arrangio lo stesso. Vabbè dai, mi guardo il telegiornale adesso, vediamo un po' cosa succede. Sì, già, dai, ci sentiamo allora. Avanti, Capri 2, riprendi. Gianni, ma questa, ciao, ben sentito Gianni, ma una tua radio è questa, quella di stasera, la 48. Sì, no, ma gli ho detto a Claudio, addirittura quando attacca esce più forte ancora del radio, guadagna quasi 4 dB di intensità del radio e non modifica la modulazione, anzi se proprio deve essere pignoli qualche cosino guadagna anche come linearità di modulazione. Bella, no Robert, è bella strumento questa, la modulazione, no? Te l'ho detto, cazzo, è una bomba, è pulita e poi non è distorta, non è la classica radio amplificata che c'è distorsione, è veramente bella, forte e poi stranamente come attacchi aumenta anche la radio. E te l'ho detto, me l'hai fatto notare tu, ma poi io mi ho messo le cuffie e vabbè, hai visto anche Massimiliano, ho detto c'è un leggero aumento anche di radio, a parte di segnale aumenta da 9,95 modulati vai a 9,15, quindi vabbè, ottimo per la truppa, dai. Ma questa è stata presa per così, per divertirmi, fare, e oggi è tutto il giorno acceso, a me che c'è caricarmi già, a vedere che l'hai passato Macchini, cazzo, quando l'ho accesa stamattina mi stava dando un watt e mezzo, mi sono spaventato, e invece poi dopo un po' ho visto lo strumento, tum, è salito, invece che era troppo ferma, si è ripresa subito, sta dando 5 watt, ora, 5 watt e quasi 10 modulati. Attimo, solo una domanda, poi riprende Massimiliano, ma non ho capito se è l'Innoito o il Polman che stai usando, il Polman c'è la Claudio, tu stai usando l'Innoito o il Polman? No, Gianni sta usando il gemello di questo, però è diverso colore, quello è l'Uino IT 294, che ce l'avevo io prima di questo, ve l'ho detto stasera, e l'ho venduto a Marco Scorpio per la sua collezione, che non ce l'aveva quello lì, capito? Però sono uguali, solo che questo c'ha qualcosa in più, quello lì Michele ce l'ha Gianni, e allora sono uguali, cambiano solo colore, dai, pensavo che non avesse il, c'è un orologio meccanico, il wattimetro, lo smitter e il modulometro, no, ma a me piace, se l'ho voluta io questa, e poi devo fare i complimenti Gianni, perché veramente è tenuta maniacale, non pensavo che fossi così con le radio, è veramente in ordine, io mi sono messo giusto a dargli una lucidatina, però le cromature sono nuove, la cassa è nuova, dentro non l'ho ancora aperta, e per vedere appunto se c'è polvere eccetera, i pomelli sono nuovi, è veramente in ottimo stato, ti devo fare i complimenti sempre in ascolto. Avanti Gianni, dai. Al tuo vicino, vai già. Gianni è andato a portare il cane, Vincenzo. Guardando il telegiornale, quello del telegiornale, sì. Massimiliano, ci sei? Sì, io devo vedere con Stefano appena si libera, andiamo da un suo amico che c'ha della roba interessante che mi interessa, vediamo se sono funzionanti e belli come questa, me le prendo, se no si ridendo, capito? No, questa è bella roba, questa è molto molto bella, è nuova, guarda, gli ho dato una una lucidata alla cassa, no, perché è nera, con le luci da cruscotto, sono anche profumata, no? Ma è lucida, lucida, lucida, lucida, le cromature sono spettacolari.